Al matiné del giovedì ballo il liscio al Garden Blu con l'orchestra Serenade. Spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrare: prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango con tasche, perciò grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Del Garden Blu, ricchi premi e cotillon, fascia d'oro per la Miss. Spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrare: prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango con casche, perciò grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Prego, vuol ballare con me? Balli se ha coraggio. Grazie, preferisco di no. Di no, di no. Non ballo il tango col casche, perciò grazie, prego, grazie, scusi, tornerò.